Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Alla firma del contratto, uno scrittore americano riceve un anticipo che è 10 volte superiore a quello che riceve uno scrittore italiano da una casa editrice di pari livello. E le differenze sono ancora più evidenti quando si parla di promozione dei libri in uscita, come racconta Eli Gottlieb, scrittore americano che ha vissuto a lungo in Italia. Ieri, al mio risveglio in Colorado, ho fatto le stesse cose di sempre, come faccio ormai da 25 anni a questa parte, con un'unica variante. Sono sceso al piano inferiore della mia casa e prima di mettermi a lavorare al mio nuovo romanzo ho preparato il caffè e ho sfogliato i giornali. L'unica differenza, ieri mattina, è che tra le varie notizie che ho letto c'era quella riguardante un mio caro vecchio amico, che per il suo prossimo libro ha spuntato un contratto di $500,000 dal suo editore. A quel punto il mio romanzo in corso di lettura, La giornata piacevole e bella, Il cane che scodinzolava felice ai miei piedi, la casa graziosa che io e mia moglie ci siamo costruiti, sono svaniti all'istante, lasciando al loro posto soltanto un'accesa e furibonda invidia. Ogni uomo ha le proprie difese, e una di queste è non rendersi pienamente conto di essere capace di sentimenti così meschini. Si logora di rabbia inaspettatamente per le tasse che deve pagare, oppure decide che l'albero del vicino tutto sommato invade un po' troppo il suo giardino e, afferrate le cesoie, lo pota con vigore. È soltanto in seguito, quello stesso giorno, dopo aver agganciato il telefono a seguito di uno spiacevole litigio con la propria moglie, che capisce la causa profonda di tanto malumore. Semplice e pura invidia per la fortuna altrui. E non di un altro qualsiasi. No, invidia per uno scrittore. Parlo di quel genere di collera particolare che si riserva esclusivamente alle occasioni in cui capita qualcosa di positivo a un collega scrittore. L'invidia, ahimè, è nell'aria stessa che gli scrittori respirano ed è particolarmente adatta a chi esercita una professione nella quale si trascorre buona parte delle proprie giornate da soli, incatenati non soltanto alla scrivania, ma altresì ancorati a quella prerogativa così pericolosamente inflazionata che chiamiamo immaginazione. Paul Valéry una volta disse che l'attività dello scrivere appartiene a pieno titolo all'elenco delle professioni deliranti, quelle nelle quali gran parte della reputazione personale dipende esclusivamente dall'opinione che si ha di se stessi. Avrebbe potuto aggiungere che, poiché gli scrittori lavorano utilizzando il linguaggio, la materia della quale è fatto il loro io, vivono in uno stato di esposizione perenne ai flussi e riflussi della reputazione e della carriera, e i loro giorni sono inframmezzati, anzi, direi quasi immarezzati, di invidia. Di solito è nel weekend che ricevevo quelle telefonate. Riuscivo subito a capire che era lui da quel leggero sibilo della connessione via satellite che si udiva prima ancora che l'interlocutore, dall'Italia, prendesse la parola. «Eli», chiedeva il mio amico Rocco, scrittore calabrese, con la sua voce profonda arrochita dal fumo. «Che fai di bello?» Ero rientrato da poco in America, dopo aver vissuto 8 anni a Roma e Padova, e di norma le nostre telefonate prevedevano un aggiornamento sui nostri reciproci conoscenti, prima di arrivare al dunque. I libri. I nostri libri. Rocco era uno stacanovista, un gran lavoratore, e a prescindere da quanto avesse bevuto la notte prima, ogni mattina era regolarmente alla scrivania. I romanzi uscivano con sistematicità dal suo computer, uno all'anno, oltre ad articoli, recensioni e saggi. Scriveva a un ritmo impressionante, molto intenso, e a 40 anni aveva pubblicato 6 romanzi e un libro non fiction. Peraltro, prima o poi, durante quelle chiacchierate, Rocco finiva sempre col cedere a quell'istinto comune e ordinario che gli scrittori così spesso reputano essere di pertinenza soltanto altrui, e come una falena ipnotizzata dalla luce, si dirigeva dritto dritto su ciò che era in grado di ferirlo maggiormente. «Quanto ti hanno pagato il tuo ultimo libro?» mi chiedeva. Dopo la mia risposta, seguiva una lunga pausa. Lo sentivo prendere fiato, profondamente. E poi, dalla lussureggiante zona di Monteverde a Roma, mi arrivava direttamente una sonora, enfatica imprecazione. Andava a finire sempre così, in quelle telefonate durante le quali discutevamo di tutto ciò che aveva a che fare con i nostri rispettivi libri. Dal tempo che l'editor dedicava allo scrittore, alla cifra investita per promuovere il libro. Dalla vendita dei diritti cinematografici, all'avvenenza delle signore che la casa editrice assumeva per accompagnare l'autore nel suo tour promozionale. Ciascuno di questi argomenti era per Rocco un'occasione in più per manifestare, talora con autentica indelicatezza, talora no, una profonda invidia. Non era l'unico, naturalmente. Nei miei viaggi in Italia ero avvicinato di continuo da scrittori italiani di fiction, dotati di un'acuta quanto sospettosa capacità di intuizione. Soltanto una versione più educata ed edulcorata dell'aperta invidia di Rocco. Ogni qualvolta saltava fuori l'argomento dei libri, questi scrittori, peraltro molto dignitosi, si irrigidivano e, scuotendo la testa come se l'argomento fosse troppo vasto, troppo complesso e in definitiva troppo doloroso da affrontare, sbottavano. Beh, l'America è diversa. A mano che andavo conoscendo sempre meglio la cultura letteraria italiana, capivo in che misura fosse davvero diversa. Rocco, per esempio, benché fosse pubblicato da Mondadori, di solito alla firma del contratto riceveva un anticipo tra gli 8 e i 10.000 euro. Uno scrittore americano di una casa editrice di pari livello in genere riceve 10 volte tanto. I romanzi americani escono con una campagna pubblicitaria meticolosamente pianificata e programmata, che spesso prevede inserzioni sui principali quotidiani nazionali, sulle riviste e talora spot alla radio. Un tour promozionale è quasi sempre la regola e, quando possibile, si organizzano partecipazioni e interventi in programmi televisivi. Un altro agente nel frattempo si occupa di gestire i diritti cinematografici e via dicendo. In Italia, invece, i libri in uscita sono avvolti da un silenzio pressoché totale. Non esiste una cultura delle recensioni di cui parlare in Italia e nella maggior parte dei casi i romanzi appena pubblicati in Italia dispiegano le ali delle loro copertine e, invece di cogliere la brezza culturale che spira dalle recensioni o dal passaparola, molto semplicemente escono di scena di filato. Parte di ciò è imputabile alla ben nota penuria di lettori in Italia, fatto che per certi aspetti è messo in diretta correlazione con la altrettanto notoria preeminenza dell'uso del telefono cellulare. Infatti gli italiani alla televisione, alla radio, al cellulare non riescono a smettere di parlare. E la lettura? Come direbbe Tony Soprano, dimenticatevene. Il problema, spiega un alto dirigente di una casa editrice italiana che conosco, che ha lavorato con editori sia italiani sia stranieri e mi ha pregato di non citarne il nome, è che in Italia si pubblicano troppi libri. Di conseguenza è naturale che essi abbiano una vita sempre più breve sugli scaffali e che le edizioni abbiano un numero di copie sempre più ridotto. Si fanno pochi progressi e gli scrittori si sentono demoralizzati e insoddisfatti, perché stanno vivendo ancora il sogno di 40 o 50 anni fa, quando pubblicare un libro significava tutto. Come ben sappiamo, oggi non è più così. A peggiorare le cose, inoltre, c'è il fatto che ogni politico pensa di avere dentro di sé un libro che vale la pena di pubblicare, e gli editori li accontentano. Poco tempo fa sono stato alla Biennale do Livro, a Rio de Janeiro, e ho avuto l'opportunità di chiacchierare con 5 o 6 romanzieri americani, anche loro in visita. Uno di questi aveva appena riscosso un successo internazionale incredibile con il suo romanzo d'esordio. Il suo è stato uno di quei fenomeni editoriali che capitano una volta sola l'anno, per ragioni imprescrutabili e note soltanto alle alte sfere del settore. Il libro è appena stato pubblicato in oltre 25 lingue. Le vendite vanno a gonfie vele in tutto il mondo e l'autore è in moto perpetuo, sempre in volo per promuovere il suo libro in Germania, Francia, Spagna, Brasile, Giappone e Canada. Gli ho rivolto una domanda sull'Italia, conoscendo già la risposta, e ho visto comparire un velo di stupore sul suo volto. «È strano che proprio tu me lo chieda», ha detto, «perché l'Italia è l'unico paese tra i più importanti il cui editore non abbia mostrato il minimo interesse nell'avermi lì. L'editoria è in crisi a livello mondiale, naturalmente, eppure è inspiegabile che proprio un paese come l'Italia, così sensibile dal punto di vista storico alla raffigurazione artistica, debba rilevarsi così indifferente alle opere letterarie. Lo scrittore ebreo-americano Bernard Malamud una volta disse che il romanzo morirà soltanto con l'ultima erezione. Dicendo ciò, intendeva dire che i romanzi esisteranno fin tanto che vi saranno spirito d'avventura e voglia di conoscere. Ha ragione? Soltanto il tempo ce lo dirà. Per quanto riguarda la situazione dell'editoria italiana, invece, potrebbe essere già arrivata l'ora, ahimè, di ricorrere al Viagra. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Eli Gottlieb dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi.